Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 5 maggio, buongiorno e bentornati di nuovo a tutti i nostri ascoltatori. Siete su Liberi Dentro ed Uradio, il nostro programma che parla al carcere e alla città e anche alla regione Emilia-Romagna, perché siamo su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Buongiorno anche a te, Antonella Cortese, sempre con me. Grazie, grazie Caterina, buongiorno a te, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, devi sapere, Antonella, che oggi ti porto e vi porto ad Alghero, dove è stata inaugurata questa iniziativa, Ora d'Arte, in carcere con il teatro Tragodia. Lo leggo da rumorscena.com, perché racconta questo progetto culturale molto bello del teatro Tragodia di Mogoro e del teatro d'inverno di Alghero, con la partecipazione dell'Orchestra da Camera della Sardegna in collaborazione con il Miglio Verde ODV, un'altra associazione, che ha lanciato una rassegna virtuale. Ovviamente non ci si può vedere, per cui si fa tutto in distanza tramite le piattaforme tecnologiche che abbiamo, che supera le barriere fisiche e simboliche per portare il teatro e la musica oltre le sbarre. Quindi in cartellone sulla piattaforma Teams due commedie, Just Forever e anche Fashion Victims, e un concerto con un programma veramente vario che spazia tra 700 e 900. E quindi la cultura in questo modo può viaggiare in rete tra la Sardegna e la penisola, tra la casa di reclusione di Alghero e la casa circondariale San Lazzaro di Piacenza, la casa circondariale di Uta a Cagliari, la casa circondariale di Monza, di Asti, di Uccera e Santa Maria Capua Vetere. Quindi veramente collega tantissime città diverse e tante carceri diverse. È stata inaugurata lo scorso marzo e a partire dal mercoledì 21 aprile con 13 appuntamenti fino all'8 giugno. È molto interessante, Caterina, questa realtà che si sta proponendo in questo modo, anche perché siamo in un momento difficile per il settore. Il settore dello spettacolo è stato veramente, insomma, colpito fortemente dalla pandemia, come tanti altri settori ovviamente, ma questo di moltissimo. Però volevo soltanto fare un accenno anche a casa nostra, perché anche da noi, nelle nostre rubriche, ne parlo subito, ci sono due realtà teatrali che propongono la loro attività, e sono il Teatro dell'Argene e il Teatro del Pratello. Quindi diciamo, facciamo qualcosa anche in casa. Hai fatto benissimo a citare il Teatro appunto del Pratello, il Teatro dell'Argene, anche i Cantieri Meticci che fanno esatto. Il teatro dentro, quindi sono tutte realtà diverse che toccano in qualche modo la nostra casa circondariale bolognese, ma hai fatto anche bene a dire che è un settore, quello dello spettacolo del teatro, toccato maggiormente dalla pandemia. E infatti, come ha spiegato Giuseppe Onnis del Teatro Tragodia, ha detto che appunto l'isolamento è diventato ancora più duro a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria, ma ciò comunque non toglie il fatto che non si poteva sopprimere, togliere voce al teatro, perché il teatro rappresenta uno spazio di libertà, la possibilità di far viaggiare la mente e anche immedesimarsi nei personaggi e vivere altre vite. Questo lo ha detto sempre Giuseppe invece Lee Joyce del Teatro d'Inverno. Mentre per la psicologa Rosella Floris questo progetto rompe la monotonia della vita carceraria e porta un messaggio di speranza, uno spiraglio di luce in qualche modo. Caterina, e che cosa ci fa ascoltare oggi? Restiamo con Janis Joplin? Sì, restiamo con lei, con un'interpretazione ormai divenuta famosissima del brano Summertime, che in realtà fu scritto da George Gershwin. Lei lo interpretò nel 1968 e dicevo, Summertime è un'aria composta da George Gershwin nel 1933 e si tratta di una tipica ninna nanna in cui il cantante rassicura il bambino sul presente e sul futuro. E è strafamosa, è stata interpretata da tantissimi interpreti e cantanti e volevo chiedere a te, siccome insegni inglese, sai l'inglese, se puoi tradurmi il primo pezzettino. Sì, fammi soltanto dire che la voce graffiante, calda di Janis Joplin l'ha interpretata nel migliore dei modi. E comunque le parole sono queste: Summertime and the living easy, fish are jumping and the cotton is high. Cioè l'estate, estate, la vita è facile, i pesci saltano e il cotone cresce alto. Ed è un inizio bellissimo di una canzone meravigliosa. Grazie, e quindi ascoltatela e godetevela con noi. Hey, the cotton lawn, cotton's high. good looking babe. She's looking good now. Hush, baby, baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, don't you cry. E rieccoci dopo il brano San Martin di Janis Joplin, siamo sempre con te, Antonella Cortese, e con la tua finestra sul mondo, oggi dove ci porti? Oggi restiamo su Summertime in qualche modo, perché andiamo in un'isola, andiamo nell'isola di Cuba e vi racconto in realtà una mia esperienza personale. E proprio in questa zona, in quest'isola che è posta tra il Mar dei Caraibi, il Golfo del Messico e l'Oceano Atlantico, e che ha una storia molto particolare e che soprattutto è stata una delle roccaforti, ultime roccaforti del mondo del comunismo. Anzi, vi dirò a tal proposito, la famiglia Castro sta cominciando, anzi ha già ceduto il passo, perché per anzianità anche Raul, che oggi ha 89 anni, ha lasciato la mano e praticamente la guida del paese diventerà Miguel Díaz-Canel, già presidente con poteri esecutivi dell'isola dal 2018. E, in realtà, anche legata ai miei ricordi, vorrei aggiungere che l'embargo statunitense, che poi peggiorò con la legge Helms-Burton, creò non pochi problemi all'isola e soprattutto chiaramente agli abitanti, che da un altro punto di vista hanno comunque nell'isolamento mantenuto una grande identità. Vi racconto di questo viaggio con una bambina di 5 anni che al tempo, insomma, mia figlia era ancora così piccola, e con il suo papà, e decidemmo di visitare questo paese ricco di storia e di umanità. Ma in qualche modo, Antonella, come avevi programmato questo viaggio? Lontano, tra l'altro, molto dall'Italia. Eh sì, lo avevamo programmato grazie ad un amico che c'era stato e aveva conosciuto una persona. Infatti il nostro viaggio cominciò proprio con un indirizzo in tasca, in realtà, senza prenotare. A quel tempo non c'era neanche tanto da fidarsi di prenotazioni fatte un po' così, e quindi decidemmo di andare in particolare a Santiago de Cuba, che è nella parte sud dell'isola, e dove poi ci arrivamo con un volo interno. Non ti racconto com'era quel volo interno, perché veramente ci siamo tutti piuttosto spaventati. Comunque arrivammo sani e salvi. E, però prima ci fermammo a La Habana. La Habana, che è una città tuttora vivace, piena di vita, di musica, e poi soprattutto ci sono dei luoghi iconici sia legati alla storia importante di questo paese, ma anche agli scrittori che avevano frequentato Cuba. Mi riferisco per esempio a Ernest Hemingway, che era solito pescare a Cayo Largo e andarsi a fare il suo solito mojito alla Bodeguita del Medio, che è un minuscolo baretto dove ci sono scritte sui muri, molto affascinante perché è molto vero. Poi da lì ci siamo spostati verso, come ti dicevo, verso Santiago de Cuba, che è nella parte sud dell'isola, e ospitati da questo Oscar, che diventò il nostro nuovo amico e che fu uno dei primi ad aprire Las Casas Particulares, che erano, diciamo, gli attuali bed and breakfast. E da lì poi ci suggerì di andare a far visita a sua sorella, in realtà, che abitava Baracoa, un'altra zona molto bella dell'isola che dava sul mare. E quindi, passando da quelle parti, mi trovai improvvisamente uno spazio enorme con al centro un edificio con una bandiera americana sopra. Quella era Guantanamo, era la prigione di Guantanamo. Qualcosa di stranissimo da vedere nel suolo cubano, perché vedevi anche la bandiera degli Stati Uniti, tra l'altro. Ecco, allora magari su questo torniamo dopo, perché mi interesserebbe approfondire con te questa vista che hai avuto della prigione di Guantanamo costruita per l'appunto nel 2002. Che brano possiamo lanciare oggi collegato a tutto questo? Allora, siamo nella baia di Guantanamo, non possiamo che lanciare Guantanamera, una canzone che è molto popolare e che tra l'altro le cui strofe si possono continuamente cambiare. Quando sei con gli amici, la canti e cambi le strofe in funzione del momento. Ascoltiamola insieme, grazie. De donde crece la palma, yo soy un hombre sincero. De donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Eccoci, bentornati su Liberi Dentro dopo la pausa musicale. Antonella, poco fa ci parlavi del tuo viaggio a Cuba e hai inserito un riferimento a Guantanamo, il carcere di massima sicurezza situato appunto sull'isola di Cuba, dove quasi tutti i detenuti all'interno sono accusati di fornire supporto materiale ai terroristi, attività che dal 2008 è considerata dal Congresso americano crimine di guerra. Ma c'è qualcosa di nuovo a questo proposito di cui ha parlato la cronaca, no? Sì, assolutamente. Anzi, c'è una bella novità in realtà. In una lettera alla Casa Bianca, 24 senatori hanno affermato che la prigione militare statunitense della baia di Guantanamo, vi leggo quello che hanno scritto, ha danneggiato la reputazione dell'America, alimentato il fanatismo antimusulmano e indebolito la capacità degli Stati Uniti di contrastare il terrorismo e combattere per i diritti umani e lo Stato di diritto in tutto il mondo. E con questa lettera vogliono, e questo ve lo dico in inglese invece, put universal rights and strengthening democracy at the center of our efforts to meet the challenges of the 21st century, cioè rimettere al centro diritti umani e democrazia. Infatti, nella lettera definiscono la prigione militare di Guantanamo Bay un simbolo di illegalità e violazioni dei diritti umani, sollecitando quindi il presidente Biden a chiuderla rapidamente e a trovare quindi una nuova sistemazione per i 40 detenuti. A questo punto io chiederei a Ignazio, che è qui con noi, come possiamo leggere questo avvenimento, questa novità. Ma io direi che sono parole molto forti quelle che sentiamo da rappresentanti del popolo americano, quindi ai massimi livelli di rappresentatività. E sono parole forti, però probabilmente non si potevano scrivere senza alcune parolette che sono dietro a queste affermazioni che risalgono a più di 200 anni prima, e cioè sempre quello che noi amiamo riportare, le Costituzioni, che sono per ogni paese il libro dei sogni, e che certo molte volte non sono attuati, sono irrealizzate, ma sappiamo che se non si realizzano i sogni, poi vengono gli incubi. E mi sembra che questo di Guantanamo sia un po' un incubo per la coscienza civile americana. Allora, che cosa leggiamo nella Costituzione americana del 1787? Vedete qua l'emendamento ottavo, che non si possono infliggere pene crudeli e inusitate. E ancora l'emendamento sesto, in ogni processo penale l'accusato avrà il diritto a un procedimento pronto e pubblico. avrà il diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa, di essere posto a confronto con i testi a suo carico, di avere strumenti cogenti per ottenere testimonianze in proprio a favore, avere l'assistenza di un avvocato per la sua difesa. Allora, ogni volta che si esce dal libro dei sogni, una nazione, anche una grande nazione come quella americana, può un po' perdere la sua anima. Quindi bisogna accogliere questa lettera, però è solo una richiesta. Sappiamo che l'amministrazione Obama aveva deciso la chiusura, poi l'amministrazione seguente ha revocato questa decisione, quindi rimane ancora in sospeso, ma è un segno di luce, così come lo è un altro segno di luce che viene proprio in questi giorni, e cioè il processo per la morte di George Floyd a Minneapolis, che si è concluso con un verdetto di condanna per omicidio dell'ex agente di polizia Derek Chauvin. Allora si poteva dire, in una situazione come quella abbiamo il poliziotto bianco incensurato contro l'uomo di pelle nera, di pelle di colore, con precedenti penali, sappiamo già come andrà a finire. Invece è finita che l'omicida è stato giustamente condannato. Non solo, il presidente Biden ha detto pubblicamente: abbiamo compiuto un passo avanti contro il razzismo sistemico, che è una macchia per l'anima del nostro paese. E gli ha fatto eco il fratello di Floyd, Filoniz, che dice che ha ricevuto messaggi da tutto il mondo, e ha detto così: tutti i messaggi dicono la stessa cosa, oggi siamo nuovamente in grado di respirare. Quello che si trae è che la democrazia ovunque, in America, in Italia, è sempre più fragile di una dittatura. La dittatura è dritta, è secca, però la democrazia è anche capace di ripartire, ecco, di rinascere, di riformarsi, di criticarsi, e questa è una grande, insomma, una grande speranza, ecco, per ogni regime democratico. Grazie Ignazio, sono parole che parlano alla coscienza universale queste. E ci interrompiamo un attimo con un brano musicale, Bob Dylan, Blowing in the Wind, e riprendiamo tra poco. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in. Rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro. Stiamo parlando del viaggio a Cuba di Antonella e il riferimento poi al carcere di Guantanamo, riferendo le ultime notizie. Ma a Guantanamo siamo arrivati così, all'indomani dell'11 settembre del 2001, dopo gli attacchi alle Torri Gemelle. Per volere dell'amministrazione Bush è stato costruito questo carcere di massima sicurezza, Guantanamo Bay, entrato nell'immaginario collettivo come luogo nel quale i detenuti subiscono torture e abusi, e che, tra l'altro, stando a un'inchiesta sul New York Times nel 2017, costa moltissimo. Si calcolano 13 milioni di dollari l'anno per ogni detenuto, quindi per un ammontare di 7 miliardi di dollari dal 2002, da quando è stato costruito fino ad adesso. E quindi allora io, Ignazio, chiedo sempre a te come hai vissuto tutto questo dal tuo osservatorio in Medio Oriente. Ho visto, posso essere testimone di una grande angoscia, ecco, negli anni in cui trascorso in diretta dal 97 circa fino al 2011, In Medio Oriente, certo, questi eventi, le guerre del Golfo, le due torri, ovviamente, che è stata una cosa enorme, e poi gli attentati, e poi ancora l'emergere poi dell'ISIS e di Daesh, e poi gli attentati in Europa, hanno veramente lacerato la coscienza di tanti musulmani e arabi di buona volontà, tanti amici, tante persone che ho conosciuto, e l'hanno lacerata sul punto anche della possibilità, diciamo così, di intrecciare un dialogo, tra virgolette, con l'Occidente, nel senso che nella storia moderna, contemporanea, l'Europa ha rappresentato qualcosa di importante per il mondo arabo. C'è tutta una generazione di intellettuali arabi, cito solo Muhammad Abdu, Muhammad Rashid Rida, il Kawakibi, e poi ancora in Libano, Boutros al-Bustani, tutta una serie di intellettuali che si sono formati a Parigi, si sono formati a Londra, e l'idea era di riportare all'interno del mondo, dei loro mondi, quelle che erano le idee buone che si imparavano in Europa, quindi i principi della democrazia. Poi accade che le idee si scontrano magari con gli interessi economici, e quindi l'Europa e l'America si smembrano, ecco, inizia il colonialismo, si smembrano i territori abitati dagli arabi, e quindi gli interessi del petrolio passano davanti a tutto. Questo ha alienato molto la simpatia di molti, e poi eventi appunto come Guantanamo e tante altre cose ha spinto verso il fondamentalismo. Io sono testimone di tante persone che partite da posizioni molto democratiche, molto aperte, via via si sono chiuse vedendo nell'Europa, nell'America il nemico da combattere. Questa quindi è una grande perdita umana. Ignazio, proprio facendo riferimento alle ultime cose che hai detto, che lezione traiamo da tutto ciò? Tornerei alla Costituzione. Siamo partiti dalla lettera dei senatori americani e abbiamo detto che non poteva venire fuori questa lettera senza una Costituzione americana che diceva 2 secoli prima che non si possono infliggere pene crudeli e inusitate. E allora nella Costituzione italiana io direi anzitutto l'articolo 11. L'Italia ripudia la guerra, non solo come un mezzo di offesa, quindi attacco gli altri, ma anche come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. C'ho un problema con uno, non lo vorrei attaccare, però alla fine a un certo punto la guerra salta fuori. L'Italia dice no a questo modo. E poi l'articolo 27 della Costituzione, dove si parla in modo specifico del carcere, che le pene devono sempre tendere alla rieducazione, adesso diciamo risocializzazione della persona che è stata colpita dalla pena. Cioè, io ti fermo perché hai fatto qualcosa di male, a parte quelli che sono innocenti, sappiamo, ci sono gli errori giudiziari, il magistrato sbaglia, va bene, ma ti fermo perché hai commesso un reato, però non ti devo distruggere in carcere, non devo metterti in una situazione di detenzione. Noi sappiamo a Guantanamo, tanta gente è uscita con l'idea di fare ancora di più la guerra, quindi che quando esci, ecco, sarai il doppio di quello che, diciamo, senso di inimicizia di quello quando sei entrato. E quindi anche questo è un punto luce scritto dai padri costituenti e che ci porta a muoverci in questo senso. E vorrei chiudere ancora con un riferimento al delitto in questo quadro, alla sentenza per l'assassinio di George Floyd. Un poliziotto ha ucciso in modo colpevole Derek, è stato condannato, adesso ci sarà il computo degli anni, che saranno tanti. Era giusto fare questo. Ma nello stesso tempo noi che lavoriamo come tante professionalità e anche come volontari in carceri, sappiamo che ci mettiamo anche accanto a Derek. Cioè se Derek fosse nella nostra casa circondariale della regione, troverebbe qualcuno vicino a lui dicendo dai Derek, ripartiamo dal punto in cui sei partito e magari tra qualche anno dirai il miglior amico che io ho avuto in carcere è stato una persona di colore. di pelle nera, perché il carcere distrugge le persone, ma anche fa anche dei miracoli di umanità. E allora concludiamo questa nostra chiacchierata su fatti presenti, ma anche di recente portata, con un brano degli USA for Africa, We Are the World. Grazie Ignazio e grazie Antonella. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Ben ritrovati dopo questo approfondimento che abbiamo voluto fare su Guantanamo Bay, il carcere di massima sicurezza. Ci ridiamo appuntamento tra poco, se ci state ascoltando su Lepida TV alle 13.30 con la rubrica Oggi parliamo di, che sarà curata dall'equipe sanitaria del carcere della Dozza di Bologna, e la potete rivedere anche alle ore 17 sul canale Teletricolore 636. Scriveteci, redazione liberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40, 136 Bologna. Un grazie ad Antonella Cortese e a Pasquale Pitagnello per il montaggio, e noi ci rivediamo sempre qui, sempre domani, su Liberi Dentro. Buona giornata. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.